Viva Che Guevara. Viva Che, viva Che, viva. Viva Che Guevara. Ernesto Guevara mi piace perché ha sempre pagato ogni cosa da sé. Mitico Ernesto, comune mortale, che ha dato la vita per un ideale, facendo davvero quel che lui sognava, volendo sul serio quel che poi diceva. Esempio per tutti di rara coerenza, anche per chi non approva la sua militanza. Tu che sei di casa qui, dove c'è sempre musica, e la parola che tu dai è nata di domenica. Tu che sogni forte, del sogno sei bandiera. Viva, sempre viva, viva Che Guevara. Viva Che, viva Che, viva, viva Che Guevara. Viva Che, viva Che, viva, viva Che Guevara. Guevara come Cristo Gesù. Ti hanno tradito e non canti più. Sei il giovane Ernesto di buona famiglia. Diventò comandante della Santa Guerriglia. Fu per cercare un futuro migliore che lui si decise contro il potere. Nessun rimpianto per la sorte che tocca. Infatti mi ride col sigaro in bocca. Tu che sai la strada dei sette arcobaleni. E hai la pioggia dentro gli occhi. E il vento sotto i piedi. Tu che sei la stella, quella rossa e nera. Viva, sempre viva, viva Che Guevara. Viva Che, viva Che, viva, viva Che Guevara. Viva Che, viva Che, viva, viva Che Guevara. In ogni foto sparsa nel mondo sembra pensoso ma anche contento. Stella sul basco, i capelli al vento, corrucciata la fronte e la barba sul mento. La faccia di uno che in forza già vinto, come colui che va fino in fondo. Ernesto Guevara l'ha segnato al destino, o anche su in cielo hai fatto casino. Esiste lassù un posto per buoni, un paradiso senza padroni, o era soltanto pura utopia, ideale, chimera, ingenua follia. Ernesto Guevara mi piace perché credo abbia dato il meglio di sé. Ernesto Guevara ha detto in c'è, avrei volentieri bevuto con te. Viva Che, viva Che, viva, viva Che Guevara. Viva Che,